Oggi si decide il futuro della ripresa economica, ma anche il futuro stesso dell'Europa. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. There's no Europe. There's nowhere close to a willingness of the Europeans as a whole to provide the kind of redistribution of wealth, of debt. Qualunque forma di mutualizzazione del debito oggi non è prevista e prevedibile. Bisognerebbe cambiare i trattati, bisognerebbe probabilmente anche cambiare la Costituzione tedesca. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. La squadra è sempre la stessa: Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Quest'oggi in assistenza Elisabetta Fusconi e in regia ritroviamo Andrea Roccabella. 349-238-6666 per sms, whatsapp per domande e commenti. Lo potete fare anche attraverso i social se preferite Facebook. La pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Se amate Twitter, gli account da tenere d'occhio sono Nessun Luogo 24, ovvero il mio personale che è Giampaz. Mentre vi parlo è riunito virtualmente, evidentemente, il Consiglio Europeo, che è l'organo politico di vertice dell'Unione Europea. Ci sono capi di Stato e capi di governo dei Paesi membri. Si cercherà un'intesa politica per rilanciare investimenti ed economie europee. Senza entrare nel dettaglio di quelle che potrebbero essere le proposte economiche che scaturiranno da questo importante incontro, è evidente che si gioca anche il destino politico dell'Unione Europea. In buona sostanza il coronavirus, o meglio il dossier sul coronavirus e i conseguenti aiuti, farà quello che altri dossier non hanno fatto: unirà definitivamente la UE o la spaccherà, così come non è riuscita a farlo la politica estera comune, così come non ha fatto la crisi greca, così come non ha fatto la crisi libica, i rapporti con la Turchia. Insomma, oggi è il D-Day. Se gli stati della sponda sud non torneranno a casa con quanto promesso, sarà spaccatura. E se sarà spaccatura, la Unione Europea stessa sarà messa in discussione. Insomma, niente sarà come prima. Se invece verrà mostrato spirito unitario, sarà un'occasione di rilancio. Questo è il tema su cui vi invito a esprimere la vostra opinione. 349-238-6666 e adesso i dossier internazionali. Il primo ci porta nelle acque del Golfo Persico, particolarmente agitate. Vi faccio sentire la fine, speriamo, di questa storia, le parole di Donald Trump. Sotto l'amministrazione Obama succedeva sempre. Sotto la mia amministrazione, no. Non staremo fermi a guardare. Non permetterò una simile minaccia. Se metteranno le nostre navi a rischio e insieme a loro gli equipaggi, la vita dei nostri marinai, reagiremo affondando le loro navi. Non posso permetterlo. Perché dicevo la fine di questa storia? Beh, perché evidentemente tutti gli analisti sperano che non vi sia un'escalation militare nel Golfo Persico. Bracci di ferro in quel braccio, scusate il gioco di parole, di mare sono stati molto ricorrenti negli anni. Non è passato un solo agosto degli ultimi 5, 6, 7 anni in cui non vi fossero tensioni tra navi della Marina statunitense e navi dei Pasdaran. Donald Trump però in questi giorni evidentemente anche irritato da quella prova muscolare, il lancio del satellite iraniano di cui vi abbiamo dato conto ieri, ha voluto rincarare la dose, mettere un po' un carico, no? Come se si giocasse a carte. Sostanzialmente ha incaricato la Marina statunitense di abbattere e distruggere tutte le cannoniere iraniane se si avvicineranno troppo alle navi statunitensi. Lo stretto di Hormuz è importante, attraverso quello stretto passa il 20% del petrolio mondiale. L'inizio di questa storia, l'inizio è stata una nave iraniana che secondo gli americani si è avvicinata troppo appunto alla nave a stelle e a strisce, e da lì una serie di più che colpi d'arma da fuoco, colpi di dichiarazioni, perché a questa di Trump aveva fatto era stata preceduta da una reazione di Teheran che diceva: l'Iran considera provocatoria e illegale la presenza nella regione di forze straniere, in particolare degli Stati Uniti. Questa è la nostra regione, dobbiamo garantirne la sicurezza pattugliandola. A un certo punto il ministro degli esteri Zarif aveva addirittura detto: forse gli americani dovrebbero pensare al Covid-19 e pensare alla loro salute piuttosto che venire con le navi nelle nostre acque. Un altro dossier molto interessante che naturalmente ci ripromettiamo di seguire con cura nei prossimi giorni. Si è aperto quest'oggi un importantissimo processo, siamo nella cittadina tedesca di Coblenza, alla sbarra degli imputati salgono Anwar Laslan e Eyad Al-Gharib. Forse questi nomi non vi diranno moltissimo. Stiamo parlando però di due ex responsabili dell'intelligence siriana, accusati di torture perpetrate su 4.000 persone, oltre che violenze sessuali e omicidi, in quello che era il famigerato carcere di Al-Khatib a Damasco. È un inizio di un processo, è sicuramente una pagina storica, non sarà certamente qualcosa alla stregua del processo di Norimberga, ma sicuramente è una scrittura di una pagina simbolica per quelli che sono stati anche anni oscuri da parte del regime di Damasco. I due siriani erano stati arrestati lo scorso febbraio dalle autorità tedesche, erano entrati nel paese, non si sa bene quando, ma il periodo di tempo è compreso tra il 2014 e il 2018, e l'avevano fatto nascondendosi in mezzo alle migliaia, centinaia di migliaia, milioni a quel punto, di profughi siriani che sono transitati in quegli anni in Europa. Plaude Amnesty International, passo storico, hanno dichiarato i ricercatori dell'organizzazione, passo storico, dicevo, verso la giustizia. Piccolo dettaglio, l'agenzia era molto stringata, ma ve la riporto perché poi parleremo anche di Cina in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Vi ricordate che gli Stati Uniti hanno sospeso per probabilmente circa 60 giorni almeno quelli che sono i contributi finanziari statunitensi all'Organizzazione Mondiale della Sanità? Ecco, sembra una risposta a tutti gli effetti, la Cina donerà altri 30 milioni di dollari all'OMS stessa. Nel frattempo arrivano parecchi messaggi al 349-238-6666, è un tema, ne sono certo, è particolarmente divisivo, ogni volta che ne parliamo anche voi ascoltatori e ascoltatrici vi dividete in maniera piuttosto equa, devo dire, non voglio dare un giudizio salomonico, ma darei un 50-50 su chi spera in una nuova linfa vitale per l'Unione Europea e chi invece spera in un tracollo politico, evidentemente, per poi procedere con modalità diverse. Stiamo in Europa per l'ultimo dossier internazionale, tra pochissimo leggerò i vostri messaggi, ci porta in Francia, ci porta a Parigi, ma in particolare nelle banlieue parigine, le periferie parigine che già anni fa videro delle rivolte, dei disordini. Sono delle zone di quella città che vivono altissimi tassi di disoccupazione e anche di criminalità. Gli esperti francesi avevano messo in guardia sul fatto che potevano essere dei focolai di rivolte e di disordini proprio a causa del lockdown. Ecco perché sono zone dove si concentrano fasce della popolazione più emarginate, più povere e con disagi economiche. Ebbene, è il quarto giorno che si vive tensione, non soltanto a Parigi, ma anche a Lione. E come dire, gli atti che sono stati messi in atto, che sono stati compiuti da alcune bande in queste banlieue richiamano, anche se in misura minore, proprio quelli del 2006, sassi lanciati contro le forze dell'ordine, vandalismo, fuochi artificiali, eccetera. Il governo francese ha condannato gli episodi di violenza, non sono accettabili, ha detto la portavoce dell'esecutivo di Parigi, Sibeth Ndiaye. Questo i nostri dossier internazionali, adesso Andrea Roccabella, partiamo con il nostro D-Day. Allora vi do conto anche di qualche sms e whatsapp che è arrivato in merito a quello che erano il nostro termometro internazionale, i nostri dossier. Lo stesso ascoltatore da un lato si pronuncia sull'Europa, spero che l'Europa si rinforzi, uno in una famiglia se uno è in difficoltà lo si aiuta, lo si accompagna verso la rettitudine, altrimenti la famiglia si sfascia. E invece sull'Iran, vi immaginate navi da guerra arabe lungo la Manico al largo degli Stati Uniti? Ma perché? Le potenze occidentali devono stare al largo dell'Iran, interessi economici è presto detto, nonché tentare di contrastare l'egemonia iraniana nella zona. Qualcun altro fa già un'opera di previsione, sfrega la sfera di cristallo, un ascoltatore: scommetterei qualsiasi cosa che non avverrà nessuna spaccatura a Bruxelles, i premier degli stati del sud Europa sono troppo corrotti e conniventi con l'establishment. Così un ascoltatore che pare molto critico su quello che sarà il comportamento dei capi di Stato dell'Unione Europea, mentre qualcun altro scrive: oggi l'Europa scriverà appunto una pagina che sarà consegnata alla storia senza possibilità di appello. più o meno il tenore delle parole recentissime pronunciate da Ursula von der Leyen. You cannot overcome a pandemic of this speed and this scale without the truth. And the truth is that Europe has now become... Non si può superare una pandemia di questa portata senza la verità. E la verità è che in questo momento l'Europa è il cuore pulsante della solidarietà del mondo. I paramedici polacchi e i medici rumeni salvano vite in Italia, i ventilatori tedeschi salvano vite in Spagna, gli ospedali della Repubblica Ceca curano i malati francesi. Ed è questo che mi rende fiera di essere europea. Così Ursula von der Leyen. Vi dicevo, da pochissimo è iniziato il Consiglio europeo, forse il più importante di sempre. È una riunione nella quale i capi di Stato e di Governo dovranno decidere quale strumento economico l'Europa adopererà per aiutare i paesi più colpiti del Covid-19. Lo sapete, se ascoltate frequentemente questa radio, vi sono programmi che hanno ampiamente informato su tutte le varie modalità, dal MES con le clausole più favorevoli, non quelle a cui ci ha abituato la nera pagina ellenica, la Banca Europea per gli Investimenti, il fondo Sure. Adesso si parla di un fondo che potrebbe attivare centinaia di miliardi legato al bilancio europeo, ma non voglio entrare nei meccanismi strettamente finanziari. Quello che è certo è che questo dossier prettamente finanziario ed economico, crisi legata al Covid-19, sicuramente mette l'Unione Europea di fronte alle proprie responsabilità politiche. Forse è azzardato dire niente sarà come prima, forse è azzardato dire che questo è il D-Day, ma sicuramente se vi saranno spaccature sarà l'ennesima prova che l'Unione Europea non si è mossa in maniera unitaria, e allora avranno forza le persone, gli cosiddetti euroscettici e quei politici che non credono appunto nell'Europa. Tra pochissimo darò conto degli altri messaggi che numerosi stanno arrivando al 349-238-6666. Fatemi però dare il benvenuto a Nessun Luogo Lontano, Andrea Del Mastro, capogruppo Commissione Esteri in Parlamento per Fratelli d'Italia. Onorevole Del Mastro, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, onorevole, è d'accordo con me che oggi è il capitolo finale per l'Unione Europea oppure il capitolo per un inizio di una nuova Unione Europea? Lei come la vede? Ah, la svolta è assolutamente quella e non può che essere quella. Oggi l'Europa o si trasforma in un'entità politica dotata di capacità di solidarietà, oppure ancora una volta sarà la somma di egoismi nazionali, in particolar modo in questo frangente dei paesi del nord, che ritengono che anche di fronte ad una crisi apocalittica che non si è mai vista come quella determinata dal Covid-19, l'unica risposta possa essere quella di strumenti di prestito finanziari del debito che molto spesso potrebbero poi ritorcersi contro gli stessi stati che li attivano. In sì. particolar modo mi riferisco evidentemente al tentativo di costringere l'Italia o altri paesi che ne hanno necessità a ricorrere al meccanismo diabolico e pseudo-usuraio del MES. Ecco, da più parti però si è sottolineato che potrebbe essere un MES senza clausole particolarmente stringenti e quindi farebbero bene quelle decine di miliardi che arriverebbero all'Italia. Voi continuate a essere molto critici. Guardi, intanto per la verità continua a dirlo il Presidente Conte, che è il medesimo Presidente che l'altro giorno alla Camera ha parlato di una proposta importantissima fatta alla UE ed è stato smentito poche ore dopo dalla UE, che ha detto non abbiamo ricevuto mai nessuna proposta dall'Italia. Quindi intanto lo si racconta in Italia questa favola, non credo che nella stampa tedesca si raccontino le stesse cose. In ogni caso la domanda è: e se l'Italia non restituisce nell'anno che sarà concesso il prestito, scattano o no le condizionalità del MES, dato che fa parte di un trattato? E ancora, ma le pare davvero che noi dovremmo credere alla favola irenica del MES come un'assicurazione? Io pago un'assicurazione per la mia macchina, 200 euro è un capitale di qualche milione di euro, 200-300 euro è un capitale di qualche milione di euro. Qua noi abbiamo già conferito 15 miliardi, ce ne prestano forse 36, sui quali tutti pagheremo degli interessi, e abbiamo sempre per stare nel MES a debito nel bilancio dello Stato 120 miliardi che sono lì a debito a garanzia, che potremmo viceversa, uscendo dal MES, utilizzare. Ora, se io devo bloccare 120 miliardi, conferirne 15 per averne 36 comunque a interessi, mi pare che sia un meccanismo tutt'altro che soltale. evidente. La voce che state ascoltando è quella di Andrea Del Mastro, che è capogruppo Commissione Esteri in Parlamento per Fratelli d'Italia. Dalle sue parole sentite e percepite evidentemente un certo scetticismo da parte dei meccanismi che l'Unione Europea potrebbe mettere in campo. Onorevole Del Mastro, però con lei vorrei aprire quello che sarà un capitolo, come dire, una conseguenza di quello che accadrà, che sta accadendo in queste ore mentre stiamo parlando ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, cioè l'Europa o l'Unione o la disunione europea che ne sarà. Lei tifa per una disgregazione, glielo posso chiedere, spera che insomma le cose non vadano tanto bene, così finalmente verrà fuori la vera natura dei singoli stati e si potranno perseguire percorsi ognuno per sé? Guardi, io ti farei unitamente all'ECR, che è il nostro gruppo parlamentare in Europa, in una rifondazione. Io credo che chi disgreghi l'Europa e chi oggi mostra il volto della troica assolutamente non solidale anche di fronte al Covid-19. Noi crediamo che oggi l'Europa abbia veramente la possibilità finalmente di tornare a volare alto, essere un'Europa politica, un'Europa che mutualizza il debito, un'Europa che magari abbia una banca prestatrice di ultima istanza per aiutare l'economia reale in un momento di grandissima necessità, un'Europa che abbia una politica estera comune, una politica di difesa comune. Per ora l'Europa è un enorme banco dei pegni dove l'Italia deve portare tutti i gioielli di famiglia per ricevere poco, molto poco, troppo poco anche per l'emergenza coronavirus. Mi pare che chi la voglia sostanzialmente distruggere, chi ne detenga oggi le chiavi, che rappresenta un po' da sempre un problema per l'Europa, cioè una nazione troppo grande per diventare egemone, ma nel contempo anche troppo grande per accettare di essere solidale, che si chiama Germania. Sì. Allora, onorevole Andrea Del Mastro, adesso apriamo il capitolo più strettamente di politica estera, che è quello che è più pertinente rispetto alla nostra missione qui nel suo luogo lontano, però mi sento di precisare che la linea di credito del MES fornirebbe l'Italia 36 miliardi, il tasso sarebbe dello 0,4% circa, scadenza di una decina di anni, questo per dovere di cronaca. Se si disgregasse l'Unione Europea, i singoli stati non avrebbero lo stesso peso geopolitico. La Cina si è già infilata con grande maestria su alcuni dossier europei, la Turchia stessa è un problema alle porte d'Europa, la Libia stessa. Lei come immagina un'Europa, un'Italia senza Europa che fa valere le proprie forze su dossier così complessi, senza l'appoggio dell'Unione Europea? Ma guardi, io per la verità l'appoggio dell'Unione Europea in questo momento in Libia non l'ho visto, per l'appoggio dell'Unione Europea sulla Turchia non l'ho visto. Lei ricorderà a me che la Turchia, prima di venire a malmostrare anche in Libia, prima di entrare in Siria a pregiudicare un fragile equilibrio che finalmente si stava componendo sotto l'egida dell'ONU, aveva addirittura attaccato un paese sovrano dell'Europa come Cipro nelle sue acque territoriali, sloggiando Eni e Total con navi militari, e l'Europa continua ad averla come paese candidato all'Unione Europea, cosa che frutta benefici per diversi miliardi al nano economico Erdogan, che trasformiamo in sultano. Mi pare veramente incredibile. Quindi per il momento l'Europa su quella partita ha giocato veramente molto poco. Sulla Cina credo che giochiamo ancor meno, anche se l'Italia ha un rapporto ancor più opaco con la Cina da quando ha sottoscritto l'improvvido memorandum of understanding con la Cina. Stiamo diventando, come dire, le fialte della civiltà europea occidentale, nel senso che stiamo diventando coloro che danno la scorciatoia alla Cina per la definitiva penetrazione industriale e commerciale, prima in Europa e poi in Occidente. Ma non mi sembra però che la risposta dell'Europa alla Cina sia una risposta importante. A quando i dazi di civiltà? Cioè la Cina è il paese che inquina di più il mondo, l'80% dell'inquinamento dei mari e degli oceani della plastica viene da India, Indocina e Cina. La risposta dell'Europa è suggerire la plastic tax all'Italia e comunque a tutti i paesi europei per flagellare le nostre aziende che inquinano per lo 0,28%, quelle europee, non si sa il dato italiano, fiumi, mari e oceani. Lei capisce che non mi pare un'Europa che è in grado di sollevare alcuna questione di difesa internazionale verso la Cina. Trump, non so se la misura è corretta, non sono un economista, ha però compreso che deve difendere la produzione nazionale, ha inaugurato l'era dei dazi. È vero che l'America ha una bilancia commerciale diversa con la Cina rispetto all'Europa, ma ha compreso che si tratta di un grande scontro di civiltà con la Cina, che dobbiamo fare proteggendo la nostra industria. L'Europa non mi pare lo abbia compreso, francamente. Ecco, onorevole Del Masto, faccio fatica a comprendere l'espressione quando dice scontro di civiltà, capisco lo scontro economico. Io lo spiego. Sì. Nel senso che tutti sanno che quando la Cina, per esempio, presta i soldi alla Grecia, ne ottiene la gestione esclusiva del porto del Pireo, poi la Grecia un anno dopo arriva nei consessi internazionali e non condanna più, per esempio, il fatto che gli uiguri in Cina vengano imprigionati solo perché pregano il loro Dio e gli vengano espiantati gli organi, come ha testimoniato il Tribunale of China con sede a Londra, condannando la Cina. Le nazioni europee hanno condannato ancora la Cina, la Grecia non più. Perché? Perché è entrata pienamente nella trappola del debito cinese, della Belt and Road Initiative e dei vari finanziamenti, e quindi ha dovuto sottomettersi anche su questioni dei diritti umani che mi pare siano la ossatura di quel che rimane dell'Europa. Se cediamo anche su quelli, cosa rimane ancora della nostra Costituzione? Chiarissimo. Quello che è anche uno scontro di civiltà. Chiarissimo, e la ringrazio di questa precisazione. E invece, onorevole Del Mastro, come la mettiamo con la Russia? Mosca ha inviato dei militari, medici militari, per aiutarci. Stanno disinfettando prima Bergamo, poi Brescia. Si sono levati voci dissonanti sull'opportunità di accogliere medici militari di un paese che non è membro della NATO e lasciarli scorrazzare ai liberi in giro, sto usando un estremismo evidentemente, per il nostro paese. Su questa questione lei cosa ne pensa? Guardi, la questione è spinosa, nel senso che per Fratelli d'Italia non è tendenzialmente cheerleader di nessuno, e quindi noi apprezziamo moltissime posizioni internazionali di Putin, soprattutto in Siria, ma da questo a dire che sia normale che medici militari scorrazzino in Italia il passo è ancora lungo. Apprezziamo gli aiuti di tutte le comunità internazionali, non apprezziamo che qualcuno in una maniera o nell'altra voglia farsi pubblicità con gli aiuti nei confronti dell'Italia, soprattutto mandi militari. Francamente io non l'ho apprezzato per nulla, ovviamente non temo scenari apocalittici per qualche medico, ma io, fossi stato il governo italiano, non avrei accettato un aiuto di medici militari. Purtroppo ormai stiamo vedendo che un po' tutti, cioè Cuba ci manda qualche medico e due minuti dopo batte agenzie stampa parlando della superiorità del modello socialista rispetto al libero mercato. Insomma, molti stati stanno facendo della propaganda internazionale con gli aiuti all'Italia. Sì. Siamo nelle condizioni di doverli ricevere lo stesso, il delicato equilibrio è quello di stoppare ogni tentativo di darne letture politiche o peggio ancora militari. Sì. L'ultimissima domanda, le chiedo di essere sintetico se può, onorevole, lo ricordo, siamo chiacchierando con Andrea Del Mastro, che è capogruppo Commissione Esteri in Parlamento per Fratelli d'Italia. Se come dire, il consiglio di quest'oggi, il consesso dei capi di Stato europei andasse male, l'Europa andasse verso una disgregazione, diciamo così, lei in linea teorica sarebbe favorevole a tanti gruppi europei e nel caso l'Italia potrebbe essere parte di una sorta di nuovo Visegrad? Guardi, per quanto riguarda Visegrad, io posso dire telegraficamente una cosa: certamente hanno un'idea di Europa, un'idea di difesa dei confini, un'idea di difesa della produzione nazionale e un'idea anche di comunità europea che si fonda su dei valori e non solo su dei valori in banca, che sono cose diverse. Quindi il gruppo di Visegrad a me non spaventa assolutamente, anzi. Dopodiché io credo che non sia sufficiente, che il gruppo di Visegrad potrebbe essere il nocciolo duro semmai per rifondare un'Europa politica di cui abbiamo estrema necessità per la complessità degli scontri internazionali e soprattutto economici che sono in atto. Sì. Io ringrazio l'onorevole Andrea Del Mastro, capogruppo Commissione Esteri in Parlamento per Fratelli d'Italia. Onorevole, buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei e buon lavoro. Arrivederci, arrivederci. La prima voce di questa puntata di Nessun Luogo Lontano, come avete intuito, piuttosto critica su quello che ha fatto fino adesso l'Unione Europea. Del Mastro ha nominato tanti dossier, noi stessi da questi microfoni lo siamo stati, la posizione dell'Unione Europea verso la Turchia, la crisi libica, non c'è dubbio che vi è stata un'assenza di politica comune da parte dell'Unione Europea. Devo anche, mi dispiace che non ci sia più Del Mastro, in effetti devo fare una rettifica su ciò che diceva: non ci sono per il momento prove sull'espianto degli organi degli uiguri in Cina, ci sono prove invece sui campi di rieducazione. nei quali sono raggruppati milioni di persone. Questo l'abbiamo raccontato più volte, qui a nessun luogo è lontano. Allora, una voce scettica rispetto all'Unione Europea, tra pochissimo vi farò sentire invece una voce un pochino più empatica. Adesso la borsa. Nessun luogo è lontano. Ancora una buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Quest'oggi l'abbiamo chiamato il D-Day, è forse un test importante, importantissimo, forse il più importante della recente storia dell'Unione Europea, se si troverà una politica comune, un accordo, una comunione anche di intenti per rispondere alla crisi del Covid-19, l'Unione Europea ne uscirà rafforzata. Se non sarà così, chi soffia sul fuoco per cercare di sgregare le istituzioni europee sicuramente ne trarrà linfa vitale. Dopo l'intervento di Andrea Del Mastro, che è capogruppo Commissione Esteri in Parlamento per Fratelli d'Italia, tra pochissimo vi presento il prossimo ospite. Devo dire che l'intervento di Del Mastro ha suscitato una selva di reazioni da parte vostra, ascoltatrici e ascoltatori. Qualcuno dice addirittura Fratelli d'Italia non ama l'Unione Europea, è finanziata assieme alla Lega da gruppi di potere americani e russi. Qualcun altro ricorda che la tanto ammirata Polonia, e ne abbiamo dato notizie a noi stessi, sta discutendo una legge per restringere la libertà dell'aborto. Qualcun altro via SMS: non mi pare proprio che i cari, lo mette tra virgolette ironicamente Fratelli d'Italia, siano propensi al libero mercato, come appena detto dall'ospite, anzi sono tutt'altro che liberali. Allora, è davvero il capitolo finale o iniziale per l'Unione Europea? Giro la stessa domanda a Emma Bonino, senatrice di Più Europa, è stata anche ministro degli esteri. Senatrice Bonino, buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie a voi agli ascoltatori. Intanto io penso che non dobbiamo dimenticare quello che già di notevolissimo è stato fatto. La decisione della BCE, la decisione della BEI, il piano Sure di 100 miliardi per lottare contro la disoccupazione, lo scostamento di bilancio senza penalità, insomma non diamo per scontato, perché per arrivare a questo punto nella crisi 2008 ci si mise 4 anni, sì. Ok? Sì. In 4 settimane le istituzioni hanno reagito. Oggi io credo sia un vertice molto importante, però non raccontiamoci favole. Non può essere il vertice risolutivo. Per quale motivo? Semplicemente perché la cosa più importante di oggi è che si dia il via politico al recovery fund, o come lo volete chiamare, sì. Non importa. Ed è chiaro che se arriva il via politico, che già non è dato affatto per scontato, sì. Io spero di sì, ma poi bisogna dare alla Commissione almeno qualche giorno, certo. Per, partendo dal titolo politico, preparare una proposta, sì. Articolata, concretizzare in termini economici e finanziari quello che sarà l'indirizzo politico. Questa è la cosa più importante, sì. Che deve avvenire oggi, e non è tanto la nostra baraonda italiota sul MES o sul non MES, sì. Francamente. Ma il punto è se si arriva a questo blocco politico, non sulla mutualizzazione dei debiti passati, questa non se ne parla proprio, sì. Ma sulla formazione di questo nuovo recovery fund, io spero da europeista nel bilancio dell'Unione Europea e non un altro fondo intergovernativo, eccetera, eccetera, ma questo è il punto in discussione oggi. Poi, sì. Almeno una settimana o qualche giorno, perché la Commissione abbia il tempo di fare una proposta articolata anche nei dettagli, d'accordo? Sì. Quanto tempo, eccetera, eccetera, il quadro legale, il quadro giuridico, le responsabilità di ciascuno e delle diverse istituzioni. Insomma, su questo il lavoro si può fare, io credo sia già in corso d'opera. Sì. se ho capito giusto, sì. Però andrà finalizzato al momento in cui è chiaro il via politico. Sì. La voce che state ascoltando è quella della senatrice Emma Bonino, più Europa, è stata anche ministro degli esteri, ha una visione su quelle che sono anche le relazioni internazionali che è importante ed è consolidata. Senatrice Bonino, se l'Europa uscisse indebolita dalla riunione di quest'oggi, lei si immagina una, come dire, sostanzialmente abbiamo due scenari: o esce rafforzata o esce tremendamente indebolita e andiamo verso la disgregazione, oppure ci avviamo al terzo scenario, a mio parere quello più pericoloso, una lenta eutanasia. Immagino continua assenza di politica estera, continua assenza di difesa comune, insomma che non vi sia una spallata o in senso buono o in senso cattivo che dia uno scossone a questa Unione Europea. Non so se è d'accordo. Sì, io sono abbastanza d'accordo, poi da federalista si figuri, politica estera comune, di difesa comune, come dire. Quello che però oggi, lei ha ragione, nel senso che l'Europa però ci ha anche dimostrato normalmente, speriamo ricapiti, che quando arriva sull'orlo, come dire, dell'abisso, sì, è in grado di fare un passo indietro per riandare avanti. Sì. E io penso che, poiché come dire, il rafforzamento dell'Europa non è solo l'interesse nostro piuttosto che degli spagnoli, ma l'interesse di tutti, compreso dei paesi cosiddetti rigoristi, che l'Europa si rafforzi, io penso, spero che a questo accordo ci si arrivi. E partendo da questo, che vuol dire il raddoppio del bilancio europeo, per essere chiari, sì, tra le altre cose, penso che questa consapevolezza che separati e divisi non contiamo un granché, ci porti a quello che non siamo riusciti a fare finora, e cioè a una politica estera comune e all'avvio di una politica di difesa comune, almeno alla protezione delle frontiere. Senatrice... C'è anche un problema ovviamente, sì, di fiscalità. Certo, certo. E quindi, insomma, che tanti nodi lasciati da parte, ivi compreso finire tutte le riforme dell'Unione Bancaria, che è rimasta anche lì al guado, trovino nuovo slancio e anche nuova velocità, se mi posso permettere. Sì. La voce che state ascoltando è quella della senatrice Emma Bonino, ex ministro degli esteri, attualmente senatrice di Più Europa. Come ha preso la notizia dell'arrivo dei militari, medici militari russi? Torno su questo tema perché è stato molto contestato, e più in generale dal punto di vista geopolitico, aiuti cinesi, aiuti russi, l'Italia è per il momento un membro della NATO. Se l'Unione Europea uscisse indebolita, qualcuno potrebbe addirittura mettere in discussione l'appartenenza alla NATO. Sto tratteggiando evidentemente lo scenario peggiore, evidentemente. No, non, quello che mi ha stupito è l'elogio sperticato agli aiuti cinesi piuttosto che russi, e il silenziamento dato per scontato a tutto quello che invece le istituzioni europee hanno già fatto, che va ben al di là di quello di qualche medico russo militare, vi vorrei, sì, segnalare. Sì, sì, l'abbiamo militare spesso sottolineato sull'opportunità o meno di appunto ospitare. Ancora aspettiamo qualche chiarificazione, diciamo, dal governo. Sì. O a qualche aiuto cinese, e sappiamo perfettamente qual è la posizione, perché sono due grandi paesi che hanno l'Unione Europea esattamente come avversario. Sì. Tutti e due hanno la linea politica di disgregare l'Unione Europea, perché entrambi si sentono più forti a negoziare paese per paese e non a negoziare con una forza di 500 milioni di consumatori e di cittadini, che è poi anche la visione di Trump in qualche modo. Sì. Ma io non vivrei meglio a Mosca, per essere, sì, chiari. So che c'è qualche leader che preferirebbe vivere a Mosca, sì, c'è quell'altro che invece pensa che meglio la Cina come alleato. A me dispiace, io penso invece che il nostro compito è quello di portare l'Europa all'altezza delle sfide degli anni 2020. Invece un po' ci siamo fermati, diciamo, al Trattato di Lisbona, sì, diciamo così. E io le propongo, senatrice, di fermarci anche noi per un istante, andiamo a sentire il traffico, poi le faccio le ultime due domande. Promo 24. Sono tanti i settori in crisi a causa del coronavirus. Uno dei più colpiti è il turismo ed eventi, tra i più importanti motori dell'economia e della cultura italiana. I principali operatori del turismo chiedono a gran voce un fondo straordinario per fronteggiare la crisi. Le associazioni Astoi, Confindustria Viaggi, FTO e importanti operatori del comparto hanno promosso il Manifesto del Turismo per l'Italia, che con l'hashtag Ripartiamo dall'Italia chiede il sostegno di tutti per la ripartenza del turismo. Operatori del settore e consumatori possono aderire al manifesto sulla piattaforma change.org. Salviamo il turismo, salviamo l'Italia. Info e aggiornamenti su ripartiamodallitalia.it. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, l'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano si apre con una breaking news: Lagarde, servono misure rapide, risolute, flessibili, non tutti i paesi sono in grado di agire nel modo necessario. Le misure per la ripresa devono essere rapide, risolute e flessibili, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde ai leader nel vertice europeo, secondo quanto riferiscono delle fonti dell'Unione Europea. Si sta parlando proprio in queste ore, in questi minuti, mentre io sto parlando a voi, lo sto facendo con l'ospite di questa pagina di Nessun Luogo Lontano, Emma Bonino, senatrice di Più Europa, già ministro degli esteri fra le altre cose. Senatrice Bonino, le giro una domanda di un ascoltatore arrivata al 349-238-6666. Se oggi si raggiungesse un accordo in Europa, credete che migliorerà anche la politica estera dell'Unione Europea, sottinteso, nei confronti del Nord Africa, questione migranti, Turchia, Cina, Russia, Siria, varie ed eventuali? In buona sostanza, un accordo economico-finanziario potrebbe essere il vero volano per una nuova Unione Europea? Può essere così potente questa pagina di storia, secondo lei? Ma non è che sta scritto nel destino, o nelle sfere. Bisognerà vedere con quanta forza e quante ne abbiamo per spingere in avanti ad affrontare i temi che questo ascoltatore poneva e che sono sul tavolo da un sacco di tempo, come è noto, e che invece negli ultimi anni, come dire, si sono persi in diatribe tra Stato e Stato, e peraltro non è che ci abbiamo da stupirci, nel senso che se noi anche solo guardiamo il nostro paese, in queste settimane, diciamo, lo scontro, confronto tra nord e sud, regioni e altre regioni, immaginatevi cosa è trovare un punto d'accordo a 27 stati. Sì. Per cui, ma diceva già Spinelli, insomma, non è che sarà un destino, è lo sbocco di un lavoro costante, di un impegno costante e anche di una sottolineatura costante di quello che l'Europa ha fatto in questi ultimi 50 anni. Sì. Le sta facendo eco, senatrice, un ascoltatore, Beppe, che scrive: l'immagine dell'Unione Europea che ha dato la senatrice Bonino, e cioè che agisce quando si trova sull'orlo del baratro, mi fa pensare che l'Italia da sola farebbe meglio, abituata ad agire in emergenza. Non abbiamo bisogno di un'Unione Europea così. Questo è un po' il sentore, non voglio essere appunto stucchevolmente cerchio bottista, ma un 50-50 di ascoltatori si dividono fra euroscettici e invece coloro che più amano l'Unione Europea. Senatrice Bonino, è una questione di amare o non amare, per alcuni sarà anche così, sì. Il problema è semplicemente di capire qual è il nostro interesse. Noi abbiamo l'interesse di far parte di un gruppo forte che sappia negoziare con gli interlocutori esterni, siano la Cina, la Russia, eccetera, eccetera, e che il grande mercato interno è una nostra grandissima leva, sì. Negoziato. Io non posso neanche pensare a cosa vuol dire andremo da soli. Con la lira? Siamo sicuri? Con l'inflazione alle stelle? Con i vostri mutui in lire? Io non capisco com'è che si fa a lanciare delle parole di quel tipo. Se non ci fosse stata l'Europa in questi 4 mesi, in 4 settimane, eravamo già alla bancarotta, ma è chiaro o non è chiaro? La posizione è chiarissima, la voce che ascoltate è quella di Emma Bonino, senatrice di Più Europa. Senatrice, l'ultimissima domanda, le chiedo uno slogan a mo' di risposta. Chi è il nemico dell'Europa adesso? Ma io ne vedo tre sostanzialmente. Uno interno, che sono i nazionalismi, che sono sempre forieri di scontro, evidentemente. E tre esterni, la Russia, la Cina e gli Stati Uniti. Grazie mille alla senatrice Emma Bonino per essere stata con noi. Buona giornata. Grazie, e buon lavoro. Arrivederci. E così Andrea Roccabella ci dà un po' la scossa ed mi dà il destro per dare voce ai tanti messaggi arrivati al 349-238-6666. Diversi colori e le temperature di questi messaggi. Qualcuno è ironico al limite del sarcasmo. Per fortuna siamo bravi nelle emergenze. Dal bellice in poi siamo pieni di emergenze che non chiudiamo mai. Così un ascoltatore. Qualcun altro: non mi sembra che l'Europa abbia dimostrato nell'ordine di essere A, un gruppo, B, forte, C, saper negoziare. Così un altro ascoltatore. E qualcun altro che irride alla nostra ospita Emma Bonino, dicendo: questa Europa deve morire, la lira è la soluzione. E poi aggiunge con un irriverente: lo dica all'euroinomane, facendo un gioco di parole il cui gusto lo lascio decidere a voi. Ferdinando da Bologna fa da contrappeso e fa da eco a questi messaggi, dicendo: caro Musumeci, se andassimo verso la disgregazione il default sarebbe assicurato. Qualcun altro: stare coi tedeschi porta sempre male. E qualcun altro ancora: l'unica chiave di lettura dei prossimi 20 anni sarà l'unità dell'Europa. Eppure, dal punto di vista strettamente politico, che ripeto è un po' il tentativo di questa puntata di Nessun Luogo Lontano, cercare di capire se la riunione di quest'oggi, che è strettamente economica e finanziaria, pur eccezionale perché la crisi del Covid-19 eccezionale, non possa diventare un formidabile acceleratore di nuova unità europea oppure di disgregazione europea. A mio modestissimo parere, lo ripeto sottovoce se preferite, la terza ipotesi è quella più lugubre. Pensate a una lunga inazione europea, a una lunga eutanasia per cui l'Unione Europea rimane così com'è, senza una politica estera comune, senza le idee chiare su cosa fare in Libia, senza le idee chiare su cosa fare per esempio con la Turchia o sul dossier immigrazione. Ecco, qua parlo da cittadino evidentemente, non da commentatore osservatore, quella è l'ultima ipotesi che vorrei. Eppure i segnali, e parlo della cancelliera Angela Merkel, si sono avuti nelle ultime settimane. Ha fatto delle aperture, ripeto, che sono strettamente economiche, ma hanno anche una pregnanza strettamente politica. Sentite. Niemand hört es gerne, aber es ist die Wahrheit. Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie. Wir sollten bereit sein, im Geiste der Solidarität über einen begrenzten Zeitraum hinweg. A nessuno piace sentirlo, ha detto la cancelliera, ma è la verità. Non stiamo vivendo la fase finale della pandemia. Dovremmo essere pronti per un periodo circoscritto a versare contributi diversi, più elevati al bilancio europeo, perché noi vogliamo che tutti gli stati membri si risollevino economicamente. Un simile programma economico, ha concluso la Merkel, dovrebbe essere sviluppato sin dall'inizio insieme agli altri paesi membri. Insomma, una chiamata alle armi, un messaggio ecumenico al quale forse non eravamo esattamente abituati. Dalla voce della cancelliera alla vostra, che arriva al 349-238-6666, mentre c'è qualcuno che fa un plauso alla scelta di Andrea Roccabella, dicendo: miracolo. Miracolo. Allora, torniamo sui dossier che sono più legati, attinenti a quello che normalmente, quotidianamente vi raccontiamo. C'è qualcuno che ironicamente dice: per fare della Libia, Siria, Africa un progetto comune per l'Unione Europea ci vorrebbe un Emma Bonino che fosse però come Maria Maddalena, insomma quasi un miracolo sostanzialmente. E l'ascoltatore fa riferimento alla grande difficoltà che ha avuto negli ultimi anni l'Unione Europea, e lo abbiamo spesso sottolineato, ad avere una posizione comune. Pensate semplicemente e banalmente, non vi è nulla di banale, a quella che è stata la crisi in Donbass, che dura tuttora, l'annessione della Crimea. Qualcun altro si avventura su temi strettamente finanziari, dai quali rifugo non tanto per anche per competenze, come immaginate. I miei studi economici ormai risalgono a tanto tempo fa, ma tra pochissimo c'è Focus Economia e quindi avrete modo di commentare e animare una trasmissione puramente economica. Lo ripeto, qua il punto è che c'è un incontro importantissimo e il dossier Covid-19 e finanziamenti e una diversa economia potrebbe essere il rilancio dell'Unione Europea, oppure no. Ciao a tutti, e sono alcuni messaggi appunto che mi state mandando al 349-238-6666 che sottolineano questo aspetto. Qualcuno sottolinea per esempio le grandi contraddizioni di una parte della destra. Come al solito, scrive un ascoltatore, la destra lotta per meno Europa, ma poi si lamenta perché c'è poca Europa. Può sembrare un paradosso, ma se la Germania si avvicinerà all'Europa sarà grazie a Trump e alla Brexit, che l'hanno privata degli altri ombrelli militari e nucleari. Può essere un gigante economico, ma in anni militari serve l'amico francese. Così un ascoltatore sempre molto attento, che aggiunge un piano, un livello alla discussione. Certo, la discussione potrebbe essere quella che si sta tenendo adesso virtualmente a Bruxelles, diciamo, dai toni pacati. Però voglio farvi risentire quello che è stato un accorato appello del primo ministro portoghese Antonio Costa in risposta a Oextra per le posizioni espresse sugli aiuti europei. Sto parlando del ministro delle finanze olandesi. Ha usato un aggettivo ripugnante che speriamo di non sentire più. Sentite. Questo discorso è ripugnante nel quadro dell'UE. Questa è la parola giusta, ripugnante, perché noi non vogliamo ancora una volta ascoltare i ministri delle finanze olandesi, come abbiamo già fatto nel 2008, nel 2009, nel 2010 e negli anni dopo. E se non capiamo che davanti a una sfida comune dobbiamo dare una risposta comune, allora non abbiamo capito nulla dell'Unione Europea. Così Antonio Costa, il premier portoghese, quel Portogallo che secondo alcuni giornali tedeschi aveva fatto il miracolo, ne abbiamo parlato proprio recentemente, qui a nessun luogo è lontano. Allora, non abbiamo capito nulla dell'Unione Europea? Beh, la risposta arriverà tra pochissime ore, per adesso non trapela nessuna agenzia, non ci sarà nulla di scritto, beh, attendiamo quantomeno un comunicato, una voce, per capire quale sarà il futuro politico dell'Unione Europea. Oggi era il D-Day e allora la chiudiamo così. Con i ringraziamenti per essere stati con noi all'ascolto, i ringraziamenti a tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano, l'appuntamento è domani, ore 16, un saluto intanto da Gianpaolo Musumeci.